Pinzimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Pinzimonio radiofonico. Oggi andremo ad approfondire un po' di aggettivi in disuso, che sono empio, turpe, fallace, serafico e ieratico, parole che insomma si sentono un po' tutti i giorni. Per cui cominciamo con empio, che significa privo di pietà religiosa o sacrilego, gente empia. Empio si dice anche di pensieri, parole o dottrine, un empio scritto. Nel suo secondo significato significa senza pietà, malvagio, crudele, scellerato, anche se in questa accezione è usato ormai quasi solo nella lingua letteraria, l'empio tiranno. Simile a questo abbiamo poi turpe, che significa moralmente vergognoso, qualcosa che offende gravemente la dignità, l'onestà e soprattutto il pudore, ossia sconcio, ributtante. Parole, atti, gesti turpi. In uso letterale significa anche fisicamente brutto, non piacevole a vedersi. Sotto turpissime forme d'uomini si trovavano meravigliosi ingegni della natura essere stati riposti. Qualcuno avrà sentito questa frase dal boccaccio. Poi abbiamo fallace, che non è fallico, è fallace, che significa che può illudere, ingannare, indurre in errore. Argomentazioni fallaci. In senso comune si può dire fallace anche di una persona, di cui non ci si può fidare. Poi serafico, che letteralmente significa proprio di un serafino, cioè di un angelo, e si dice di un sentimento, un amore, un ardore serafico. Da qui in senso figurato si dice di qualcuno che sta tranquillo e beato, che non si scompone né se la prende per nessuna ragione. Per esempio, se ne stava lì con una faccia serafica a sentire le loro ingiurie. E concludiamo con l'ultima parola che un po' si avvicina a serafico, che è ieratico, che significa innanzitutto sacerdotale, per lo più con riferimento ai sacerdoti dei popoli antichi. Da qui, per estensione, ieratico si usa per definire qualcosa, soprattutto un atto, un gesto, una parola, improntata a una compostezza sacerdotale molto solenne, parlare con tono ieratico. Il termine è usato anche con intonazione ironica, per indicare una gravità e solennità ostentata, caricata, sproporzionata rispetto al luogo o alla circostanza. E se un po' ieratico è stato questo pinzimonio di oggi, vi aspetto domani sempre alle 9:15 per un pinzimonio un po' meno solenne, sempre su Radio Città Fujiko. Ascolta il Pinzimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinzimonio Radiofonico. E un ringraziamento speciale per averci offerto la base di questa puntata va ad Apo, che potete trovare su SoundCloud sotto il nome di Diego Mantovani. Il Pinzimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazioni di carattere non strettamente personale. Grazie e buona giornata. Il Pinzimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio.